grazie dell'ospitalità, intanto. Io ho pensato di leggere alcuni pezzi dal libro e intanto far scorrere alcune foto rispetto al primo viaggio di cui parlo, che è nell'esperienza delle scuole comunitarie di Salvador de Bahia in Brasile. Rispetto poi al secondo, seconda esperienza di cui racconto nel libro, che invece ha a che fare con una scuola che si trova in un quartiere popolare di Bogotà, in Colombia, legata al movimento dei bambini lavoratori, ho appunto dei video che ho girato lì e quindi ascolteremo alcuni dei ragazzi, dei bambini stessi, raccontare un po' questa loro esperienza sia di vita quotidiana, tra la casa, il lavoro, eccetera, sia un po' di questa scuola alternativa nata anche lì ormai una ventina d'anni fa. E io vado. Un intreccio di storie, di vita, di scuola, ecco la trama di questo libro. Prima di tutto le storie di due maestre in altrettante scuole del mondo, accomunate proprio dal fatto di essere donne, dal coraggio di essere donne e maestre. Della storia di Jamila, maestra e coordinatrice pedagogica della scuola comunitaria Luisa Main del quartiere d'Uruguay, a Salvador de Bahia, Brasile, che da sempre lotta per un'educazione liberatrice che possa creare cittadini attivi e che sa ancora commuoversi per le condizioni precarie di vita di molti dei suoi bambini. E quella di Beatrice, la nonna di tutti i bambini ed insegnanti della scuola laboratorio per NAZ, bambini e adolescenti lavoratori, di Patio Bonito, a Bogotà, Colombia. Per più di 40 anni maestra appassionata, innamorata dei bambini e dei ragazzi più poveri e depressi. Poi vi è la mia storia, quella di un cammino alla ricerca di dove la vita e la scuola abbiano ancora un valore. Perché nessuno più da noi te lo insegna, questo lavoro. Nessuno più ti accompagna a viverne il senso e la forza. Un lavoro che io stesso, ad un certo punto, ho sentito come una coperta troppo corta, che ora mi copriva i piedi, ora la testa, ma ne mancava sempre un pezzetto per sentirmelo bene addosso, per sentirlo adeguato e degno dei miei piccoli alunni. Ben arrivato. Ciò mi ha spinto a lasciare tutto, per 5 anni, le mie abitudini, la mia casa, la mia scuola, per entrare in altre scuole del mondo. Perché, lì ho capito, solo chi scopre il proprio popolo, la propria gente, e ne sceglie il cammino di emancipazione e di trasformazione, può dirsi maestro. Ricordo a proposito, e ritornerà più volte nei pensieri all'interno del libro, un grande maestro italiano, Lorenzo Milani. Anche lui a un certo punto sentirà che c'è un altro mondo rispetto al proprio, lui che veniva da una famiglia borghese, un popolo che lo chiama e che incontrerà in modo radicale a Barbiana. Sono quei figlioli di pastori e contadini che non smetterà mai di amare con passione. E ho incontrato questa stessa passione indomita, questa stessa visione assieme educativa e di trasformazione sociale in queste donne, in queste maestre. Mi hanno mostrato con il loro esempio e spiegato con le loro storie ciò che contraddistingue questa professione, che non è tanto l'insegnare nozioni, regole, comportamenti, discipline, ma la possibilità di aprire un cammino reciproco tra adulti, bambini e ragazzi di crescita e di scoperta di sé e del mondo. La scuola insegna se fornisce strumenti culturali e ne favorisce un'ideazione creativa di nuove da parte degli alunni. Se aiuta, attraverso di essi, a leggere criticamente sé e il mondo, se promuove in chi l'anima la consapevolezza di poter partecipare attivamente per agire individualmente e collettivamente sulla propria realtà, per migliorarla e migliorarsi. Insegnare, insomma, è condividere un cammino di liberazione e di trasformazione di uomini e donne, bambini e bambine, di una comunità verso un mondo più giusto e solidale. Iniziamo il viaggio. Felice? Thank you. nostro primo vero incontro. Giunsi con l'autobus di linea al capolinea del quartiere di Uruguay, presso cui si trova la scuola, dalla zona residenziale dove mi aveva ospitato la famiglia di un'amica brasiliana conosciuta a Padova all'università, Anna Rita. Quel mattino, appena Anna seppe dove mi sarei recato, mi disse, con quel velo di dolce apprensione di cui sanno essere capaci le ragazze brasiliane, stai attento, è uno dei posti più pericolosi della città, vi succedono molti scippi, violenze, sparatorie tra bande di delinquenti locali. Le sorrisi, ma dentro cominciò a salirmi una certa agitazione che aumentò via via che l'autobus, percorrendo tutta la città, cominciò ad inoltrarsi nelle stradine sconnesse ed ingombre del quartiere di Uruguay. Ero pienamente consapevole di dove mi stavo cacciando e per vari mesi mi sentivo, penso per la prima volta in vita mia, vulnerabile. Ma ormai ero lì, dove da troppo tempo volevo essere. Ciò nonostante, appena sceso dall'autobus, percorsi quasi di corsa con il cuore in gola senza fermarmi a parlare con nessuno quel centinaio di metri che separano il capolinea dall'alto portone di ferro e dal muro altissimo che serra dietro di sé il cortiletto della scuola. Impossibile non vederla anche da lontano. Un grande striscione appeso alla ringhiera del terrazzino del primo piano diceva Scuola Comunitaria Luisa Maini. Sono circa le 9:30 quando busso al portone della scuola. Appena dentro mi colpisce subito l'apparente confusione di rumori che si mescolano nei corridoi, nelle classi, così simile a quella delle vie circostanti. Gianira mi riceve nella sua stanza, quella della coordinazione pedagogica, con un sorriso energico accompagnato da una tazza di caffesigno che mi rasserena. La sala praticamente non ha porte, vi è invece una finestra balcone che dà sul corridoio, da cui, anche mentre cominciamo a parlare, si affacciano continuamente in tanti, bambini, genitori, giovani e operatori della scuola che si rivolgono a lei per i più diversi motivi. Spesso suona anche il telefono, il citofono, e lei risponde sempre, a tutti. Mi osserva per un attimo, in silenzio. Il suo volto solare e grande, animato da occhi che paiono parlare ogni volta che si muovono. Poi mi dice, ti potrei ospitare io stessa per questi mesi che sei qui. Non ho mai affittato finora una stanza a qualcuno, dato che vivo io stessa in affitto. Prima abitavo qui vicino, pagavo meno, ma era un'abitazione molto più piccola e buia. La nuova casa invece è più vicina alla scuola, dove passo tutto il mio tempo. Ci torno solo la notte o fine settimana a casa. E così, lasciata la valigia nello stanzino, ci sediamo attorno al tavolo rotondo della piccola sala da pranzo. C'è un piacevole silenzio tutto attorno e una penombra che invoglia a raccontare. E così Gianira racconta. L'associazione, come molte altre di abitanti dei quartieri circostanti, nacque per volontà di alcuni degli abitanti stessi, che vollero riunirsi per promuovere con il proprio impegno i diritti della propria comunità, soprattutto quelli alla salute e all'educazione, disconosciuti dallo Stato assente nel quartiere. In quegli anni tutto ciò si inseriva in una vasta mobilitazione popolare, invasioni si chiamavano, che avvenivano nelle aree più marginali della città, come questa in cui ci troviamo, che è quella che diventerà famosa con il nome Dos Alagados, gli Alagati. Centinaia di famiglie povere che continuavano ad arrivare per giù dalle campagne occupavano abusivamente questa zona, a quel tempo ancora paludosa, costruendo sopra l'acqua e nel fango delle palafitte in legno e cominciando poi a riempire il terreno a acquitrinoso con ciottoli, terriccio, rifiuti, scarti, qualsiasi cosa pur di renderlo più solido e asciutto. Da qui è partito questo primo movimento popolare di lotta per il diritto alla casa per tutti. La scuola comunitaria Luisa Main nacque successivamente nel 1989 con l'obiettivo iniziale di prendersi cura dei bambini figli dei lavoratori nell'età tra i 0 e i 6 anni di cui non si faceva carico il sistema dell'istruzione pubblica, che partiva dalla scuola primaria. Fu allora che le donne dell'associazione decisero di occupare uno spazio che si trovava vicino alla sede. Era uno spazio insicuro, fatto di assi di legno, pezzi di mattoni, pieno di buchi. Dentro c'erano solo alcune vecchie sedie. Alcuni insegnanti si sedevano per terra e scrivevano su fogli di giornale o su fogli usati, recuperati dagli stessi abitanti del quartiere. Grazie all'impegno con cui comunque le insegnanti lavorarono, presto la scuola cominciò a ricevere in dono dagli stessi abitanti del quartiere alcuni materiali, i primi mobili, e poi così crebbe negli anni, arrivando al primo, al secondo e al terzo piano. Ma non erano mai sufficienti, dato che aumentavano costantemente le richieste di iscrizione. A quel tempo era molto sentito dalla povera gente il valore della scuola e della cultura. E io qui dialogo adesso un po' con Jamila dicendo: comincia adesso a capire, Jamila, il volto particolare di questa scuola di cui mi stai parlando. Non è una scuola tradizionale come le conosciamo in Italia. Non è una scuola statale, gestita e mantenuta dallo Stato o da un altro ente pubblico, ma non è neppure una scuola privata, come tu mi spieghi, come la miriade di istituti e scuoline che sono proliferati nei quartieri popolari di Salvador per far soldi, approfittando della bassa istruzione e della buona fede di molte famiglie, come in tante altre città. Scuole dei nomi roboanti, anche se spesso occupano una sola stanza della casa del proprietario e sono gestite senza una reale competenza pedagogica. Invece questa è una scuola comunitaria. Prima di tutto perché voluta con mille sforzi e battaglie civili dagli stessi abitanti del quartiere. In tanti hanno manifestato contro l'autorità pubblica perché si attivasse per il riconoscimento del diritto ad un'educazione degna anche nel loro quartiere. Ma intanto, di fronte alla latitanza di uno Stato ancora aristocratico e corrotto, ognuno ha messo ciò che poteva, chi i mattoni, chi le braccia, chi una sedia, la carta, le matite. Chi appena sapeva leggere e scrivere si è fatto come maestro, magari improvvisando all'inizio, ma superando poi le lacune pedagogiche e didattiche di partenza con la forza dell'impegno e della passione di chi sa di lottare per una missione di grande valore sociale e civico. Ma poi è una scuola comunitaria perché è una scuola che si professa pubblica e non per forza statale, per lo spirito con cui insegna e per la chiarezza della posizione politica che assume. E nello stesso tempo è gestita da un'associazione di abitanti, da privati cittadini, che anzi lottano contro la burocrazia e la corruzione statale che gravano sulle classi più deboli. Ancora possiamo dire una scuola comunitaria perché continua a lottare da sempre per ottenere un riconoscimento ufficiale del valore di questo loro particolare percorso educativo, nato dal basso e che si inserisce a pieno diritto nel movimento dell'educazione popolare, portato alla ribalta internazionale dall'impegno e dagli scritti di Paulo Freire. Tanto che negli ultimi anni, da quando cioè la maggioranza del Brasile ha scelto come presidente Lula e il suo PT, è stata varata una legge che ha introdotto anche nelle scuole pubbliche dei bianchi lo studio della cultura e dell'arte afro-brasiliana, che contraddistingue le scuole di questi quartieri. E così, ecco qui la nostra Jamila, in mezzo ai suoi ragazzi, ci racconta un po' come è iniziata questa sua esperienza di insegnante. In quel periodo, quando è nata la scuola, io stavo già lavorando come insegnante in una scuola privata, ma il suo direttore proprietario mi trattava male. Ne approfittavo, dato che non avevo il titolo di studio adeguato e per il fatto che fossi giovane pensavo anche che fossi tonta. Per cui, quando mi chiamarono a insegnare alla Luisa Main, decisi di andarmene subito da lì. Ricordo che bastò che lo seppe una delle mamme dei miei alunni, erano in tutto una decina di bambini, che subito si sparse la voce tra tutta la classe e nel giro di poche settimane tutti i genitori tolsero i figli da quella scuola privata. Dissero che non volevano lasciarli in mano di altri. Ora che l'insegnante Jamila se ne andava, dato che in poche settimane era riuscita a farlo imparare a leggere e a scrivere. E così si sono trasferiti tutti insieme a me, alla Luisa Main. La mia ex classe è rimasta completamente vuota e il direttore è ricomparso a pregarmi di tornare a insegnare da lui. Ma mi sono rifiutata dopo il brutto trattamento subito e gli ho detto in faccia cosa pensassi di lui. Subito assaporo, Jamila, questo tuo spirito così energico e vitale. che ti ha caratterizzato già dai tuoi anni più giovani. Scoprirò vivendo con te, io ho abitato 4 mesi a casa sua. Da qualche accenno detto di sottovoce, come tu davvero abbia condiviso la storia personale e familiare, fatta di soprusi, di grandi difficoltà e di lotte, di quella che chiami la tua gente. E andiamo a sentire una storia che ci fa un po' capire questo movimento di lotta interna anche proprio in questo momento. Perché festeggiare il Natale come finora si fa? Io da bambina aspettavo sempre Babbo Natale, ma per strada dove vivevo con le mie ciabatte bucate non veniva mai. E mi chiedevo perché, forse non mi vuole bene? Così cominciai a odiare il Natale e tutte le feste, perché gli altri ricevevano tutti un dono e io no, mai. Perciò quando venni alla scuola Luisa Marini, in prossimità della festa di Natale, dissi: ma perché dobbiamo festeggiarlo? È tutto falso, non esiste Babbo Natale, io odio questa festa. Le altre maestre mi dissero: ma Giamila, è una festa importante, d'amore, da far vivere i bambini, perché noi sentiamo che i bambini stanno perdendo i loro riferimenti affettivi. Prima la mamma, il papà, o la mamma sola, o qualcuno della famiglia, erano un punto di riferimento per il bambino, d'affetto, di rispetto, di attenzione. Ora invece... Ma io non ero convinta. Per me questa festa confermava la loro condizione di esclusi, ritualizzava il fallimento e il perpetuarsi di un mondo di ingiustizia sociale senza speranza per loro. Me ne tornai a casa e quella notte feci un sogno. C'era un bambino che riceveva un dono da un Babbo Natale che in realtà era un suo amico. Il giorno dopo, la mattina presto, mi alzai e raccontai il sogno agli altri insegnanti. Va bene, festeggiamo il Natale, ma facciamo capire ai bambini che Babbo Natale sta dentro ognuno di noi quando ci si prende cura di un amico. Ne parlai in aula e tutti i bambini mi dicevano le stesse cose che dicevo io da piccola. Ma perché Babbo Natale non viene mai da me? Forse è che non gli piacciono le palafitte? Esiste solo per i ricchi? Questa è una casa di alcuni di questi bambini. Dissi loro: no, piccoli, vedrete che Babbo Natale viene dappertutto, anche da voi. Raccogliemmo 350 letterine, dove ogni bambino aveva scritto i suoi desideri, e molti erano davvero commoventi. Caro Babbo Natale, vorrei una casa, un lavoro per il papà disoccupato, un vestito che almeno per una volta sia nuovo, quaderni e penne per la scuola. E le distribuimmo presso varie imprese ed aziende della città. Ogni bambino ricevette un regalino e un bigliettino di risposta del suo Babbo Natale, cioè un amico allo sconosciuto, ma che gli voleva bene. Fu una gioia. E un po' alla volta, ogni anno di più, in tanti si appassionarono a questa idea. Ora ci sono tutti i lavoratori di una fabbrica, dei pulisci, i pavimenti e il direttore, che prima di Natale ci telefonano con entusiasmo per chiederci 30-40 bigliettini dei bambini. È uscito anche un articolo sul giornale e oggi fanno lo stesso molte altre scuole di Salvador. Ma i bambini ci tengono di più. Guai se manca. E torniamo un po' ad ascoltare Giamila come ci racconta appunto questo suo legame forte con le stesse esperienze di vita di questi bambini. Ho sempre raccontato ai bambini la sofferenza che io stesso ho vissuto a scuola da alunna e loro mi hanno subito sentito vicina, non amica ma compagna. Anch'io infatti vengo dalla strada e perciò da ragazzina avevo come loro un'autostima molto bassa e facevo di tutto per mettermi in mostra, per essere al centro dell'attenzione. A scuola così cominciai a fare teatro, organizzavo feste, con la mia parlantina convincevo tutti, ma come loro nello scrivere era un disastro. Ma dato che ero sempre tra i più bravi in matematica, tanto che eseguivo correttamente tutti i calcoli, certo, perché avevo imparato la matematica pratica della strada, come si misura il peso della carta, del ferro, del vetro, come si conta il denaro, le maestre mi promuovevano da una classe all'altra senza verificare se io sapessi anche scrivere e leggere. E così rimasi una competenza linguistica per lo più orale, che mi causò problemi serissimi quando giunsi alla scuola superiore. Come questi alunni, anch'io non riuscivo a scrivere e nascondevo a tutti i miei testi perché lì sopra v'era accumulato tutto il peso della mia incapacità. Perché com'è che si impara a camminare? Camminando, provando a muoversi, cadendo e rialzandosi. E come si impara a scrivere? Scrivendo, e a leggere? Leggendo. All'inizio sbagliando, poi sempre più migliorando. Un bambino impara a parlare ascoltando le persone che parlano e subito provando a parlare. Non è così? E come si impara ad insegnare? In queste pagine, Giamila, ce lo stai distillando una goccia dopo l'altra. Così, quando mi chiamarono alla Luisa Maì, portai dentro la scuola questa mia esperienza di vita e di teatro. Mi proposi di lavorare con quei bambini difficili, così come ero stata io, in modo però molto diverso. Per farli scrivere, partì dal testo teatrale, affrontando le questioni a loro vicine, come per esempio la violenza, la fame, anche attraverso la riscoperta della storia di lotta del movimento nero e della cultura afro. Cominciai facendo loro costruire marionette, con le quali facevamo spettacolini. Facevo creare e diventare le storie dei bambini. Così, attraverso queste attività, tutti cominciarono a scrivere molti testi. Sono riuscita in poco tempo ad entusiasmare questi bambini, che fino a quando non c'ero io non volevano assolutamente saperne di studiare o di scrivere. Introdussi poi la composizione poetica, le poesie, per far loro vedere che se si concentravano sulla loro esperienza di vita e i loro sentimenti, le parole scritte uscivano quasi da sé. Giamila, ci mostri qui un esempio meraviglioso dell'applicazione dei principi dell'educazione popolare. Fiducia di fondo nei bambini, di qualsiasi condizione e strato sociale. Reinvenzione costante di una didattica attiva, basata sul coinvolgimento attivo dei bambini. È capace poi di incuriosire e divertire, perché da una parte interessata all'espressività artistica, il teatro e la poesia, e dall'altra a fare il manuale, costruire i burattini, dall'altra ancora attenta a valorizzare le tematiche inerenti alla vita quotidiana dei bambini stessi, la violenza, la fame e la loro sfera emotiva, i sentimenti. Giamila poi, negli anni, è diventata coordinatrice pedagogica di questa scuola. La coordinazione pedagogica è una figura che non esiste nella scuola italiana. Un po' forse assomiglia a quella che era una volta il direttore didattico, ma ormai abbiamo dirigenti scolastici che sono principalmente dei manager che devono rispondere a richieste molto burocratiche e dall'alto. Invece la coordinatrice pedagogica accompagna proprio nel percorso didattico, pedagogico costante le insegnanti e incontra direttamente anche gli alunni e le famiglie per creare e facilitare questo intreccio, questa comunicazione. Ed ecco cosa lei dice nel gruppo degli insegnanti. Ogni insegnante deve muoversi stando vicino al bambino, deve osservarlo per arrivare a lui e non continuare con la solita barba noiosa di scritti e di letture da copiare. Dico loro che osservino le sue difficoltà per arrivargli vicino. E ciò su cui richiamo sempre la loro attenzione non è tanto il loro dovere di insegnare, ma il come lo fanno. Come insegno la lingua portoghese? Come lavoro sull'elaborazione dei testi? Sarà che i miei alunni imparano rispetto a come io insegno? Sarà che stanno apprendendo o che sto insegnando da sola? Dove li porta il mio lavoro? E mentre sto insegnando, perché lo sto facendo? Solo per passare dei contenuti attraverso una metodologia perché il bambino apprenda? O per capire se ci sono altri modi per raggiungere il bambino e favorire il suo apprendimento? Sacre domande, Giamila, che scorgano da quell'incessante interrogarsi che prelude alla profondità, alla sensibilità, all'amorevole cura, ai care, che costituiscono la vera spina dorsale di un insegnante, di un educatore, di un uomo e di una donna degni di questo nome. Che questa inquietudine mai sazia ci accompagni, abitando il nostro animo, la nostra mente, le nostre mani indaffarate. E non per condurci all'angoscia o alla demoralizzazione che bloccano la vita, ma per spingerci ancor più vicino, a farci vicino, ai bambini e agli altri compagni di viaggio. E c'è un'altra caratteristica particolare che volevo un po' dirvi di questo tipo di scuole. Da noi avete sentito parlare del POF, non so se adesso si chiama più POF. piano dell'offerta formativa. Ecco, in Brasile, in tutte le scuole, anche nelle scuole statali, si chiama progetto politico pedagogico. Cioè, suona un po' diverso, eh? E sentiamo però anche lì, può essere solo una parola, in molte scuole in realtà poi viene svuotato anche lì, però io ho avuto la fortuna di conoscere e sentirne parlare all'interno di questa esperienza. E così me lo presenta Giamina. Ad un certo punto anche noi dovremmo iniziare a scrivere il nostro progetto politico pedagogico. Ci chiedemmo soprattutto, cos'è che noi desideriamo raggiungere? All'inizio parlavano soprattutto le donne fondatrici dell'associazione e io restavo ad ascoltarle e sentivo che il loro desiderio di cambiamento, di trasformazione sociale, era anche il mio. Per questo credo che sia importante il nostro progetto politico-pedagogico, perché può aiutare le insegnanti ad orientarsi, a capire la nostra proposta, che è una proposta politica di lotta e di trasformazione culturale e sociale. E io dico, che scandalo, o meglio, che incomprensione provocherebbe rivitalizzare il nostro POF con la profondità che esprimete, anche con le parole che usate e con la passione che mettete in quella che voi chiamate la vostra missione. Lottare per, e questa è scritta proprio all'ingresso della scuola, lottare per formare cittadini capaci di combattere le disuguaglianze e di trovare soluzioni ai problemi e alle sfide della società e di creare ogni volta di più meccanismi di lotta in difesa della qualità di vita dei suoi abitanti nella formazione etica, sociale e umana. Voi ci richiamate all'importanza di inscrivere e comprendere i problemi quotidiani che viviamo all'interno della scuola, all'interno di una prospettiva politica più ampia che si interessi di tutte le principali questioni che sono di interesse pubblico e sociale, in particolare quelle che riguardano i bambini e le loro famiglie. Se da voi sono ancora gravissimi i problemi dell'abitare, della salute, della malnutrizione, dell'indigenza, della violenza e dell'abbandono familiare, essi sussistono tuttavia anche in alcuni livelli della nostra società, assieme al problema, anche da noi sempre più diffuso, della precarietà del lavoro. Ma da noi sono molto più preoccupati, a mio modo di vedere, le difficoltà di attivare una reale partecipazione attiva e una convivenza democratica e civile e l'integrazione pacifica tra persone di culture differenti. Ci indicate di adottare questa lettura critica della realtà socio-economica in cui viviamo anche per non scadere più nella miope colpevolizzazione delle famiglie per tutti i problemi di cui ci paiono portatori i nostri alunni. Giamira, io una volta facevo tutto quello che riuscivo di persona per tutti quelli che potevo, ma poi ho capito che vi è al fondo una questione sociale che riguarda le politiche pubbliche e per questo sono entrata nell'associazione, in un gruppo attivo, perché altrimenti, con la sola buona volontà individuale, non si riesce a risolvere nulla dei macro problemi che continueranno ad affliggere la nostra comunità. E il loro, anche il loro progetto politico-pedagogico, come dovrebbe essere anche i nostri POF, mira a una scuola di qualità. E sentiamo come ce la presenta Giamira. Una scuola di qualità è quella che percepisce l'altro. Se non percepisci l'altro, non puoi insegnare bene, né puoi preparare con cura neppure la meretta. Se non cerchi l'altro per rialzarti insieme quando cadi, non ce la farai a fare qualità. Perché la qualità a volte non passa per il piano pedagogico, bensì per le emozioni delle persone, per quello che le persone stanno sentendo. Per esempio, ti accorgi che un giorno qualcuno, che di solito è una persona positiva, ha fatto una cosa sbagliata. Puoi arrabbiarti o chiederti cosa stia succedendo. Allora cominci a preoccuparti per lui, credendo che lui sia in gamba, che sia valido, è solo che sta passando un momento difficile. Per cui puoi fare qualcosa per aiutarlo. Per me la qualità è questo percepire l'altro come persona, come cittadino, come vorresti essere percepito tu a tua volta. Inoltre, La qualità della nostra scuola comunitaria non sta tanto nell'attenzione all'individuo e al singolo, che dovrebbe offrire ogni scuola, ma in quella al collettivo. Se tu credi nella scuola comunitaria, sai che la scuola comunitaria è il collettivo. Non puoi dar da mangiare due piatti di zuppa ad un bambino solo, quando sai che ne hai almeno altre 10 che hanno fame. Se lo fai, stai lavorando solo sul piano individuale. Ma se insegni loro col tuo esempio a condividere, ad aiutarsi, per esempio, dividendo un po' della tua zuppa con chi ne vorrebbe avere ancora un po' perché ha fame ma sa che c'è molta altra gente che non ha mangiato, allora stai sia lavorando sul piano individuale che nello stesso tempo rispettando quello collettivo. La mia preoccupazione è sempre stata questa: lavorare per rafforzare il senso collettivo. Chi deve garantire il piano individuale sono gli insegnanti, ma devono lavorare anche su quello collettivo, con il loro esempio. Ed è qui che si percepisce che il collettivo è importante. Ogni cosa che succede a scuola si decide assieme e poi facciamo una riflessione comune a partire dall'esperienza fatta per migliorare. Vi faccio vedere qualche altra foto di questo mondo di cui abbiamo sentito un po' parlare per capire anche come si traduce un po' nella pratica. E questa è una foto in cui si vede Jamila con gli adolescenti, perché se abbiamo un po' capito, una scuola comunitaria è aperta dalle 7 di mattina a mezzanotte. Non è solo per i bambini, accoglie tutti gli abitanti della comunità. Quindi c'è il pomeriggio, il rinforzo scolastico per chi studia anche in altre scuole più grandi, la sera l'alfabetizzazione per gli adulti che magari hanno interrotto dopo qualche scuola, classe di scuola primaria, e quindi non sanno più leggere e scrivere e quindi vanno a formarsi per poter leggere un contratto di lavoro o quant'altro. Vengono fatti corsi professionalizzanti. Gli adolescenti ovviamente sono la fascia più a rischio di entrare nei percorsi della criminalità organizzata e in facili vie all'inizio, che sembrano promettere grandi sogni e poi diventare violente. E Jamila, appunto, come suo ulteriore slancio verso il futuro, diceva: io adesso vorrò lavorare principalmente con gli adolescenti. E c'è tutto un percorso anche lì sul loro protagonismo, come iniziare già da giovanissimi ad attivarsi nella comunità. Questa è appunto una foto di una delle classi dove vediamo un'insegnante giovanissima del quartiere. È fondamentale nella scuola comunitaria che l'insegnante abiti, abbiamo capito, e viva le stesse dimensioni, le stesse esperienze quotidiane, anche dure, che vivono i ragazzi, i bambini, le famiglie del quartiere. In questo c'è anche lì tutto un percorso molto difficile con l'amministrazione pubblica, che da una parte ha iniziato a dare dei fondi economici a queste scuole, che si basano veramente principalmente sul poco che le famiglie danno, e quindi hanno un salario molto più basso del minimo brasiliano, che è già basso, e spesso anche per mesi, io ho parlato con questi insegnanti, non percepivano lo stipendio. E quindi arrivano dei finanziamenti pubblici, però lo Stato vorrebbe scegliere lui gli insegnanti, cioè con le classiche graduatorie, i concorsi, però questo significa uccidere quella comunità, quello spazio, perché ti arriva un insegnante del quartiere X del nord della città lì dentro, lui si trova un pesce fuor d'acqua, ma anche non conosce nulla delle dinamiche e non entra nei processi anche sociali di lotta. Sono scuole dove ovviamente l'insegnare è uno dei piccoli pezzi, c'è tutto un lavoro e un percorso anche di attenzione alla salute, allo star bene, alla convivenza, alla nutrizione, per cui un lavoro forte anche con le famiglie è quello proprio di promuovere un'alimentazione diversa da quella quotidiana, che è fatta di riso e fagioli principalmente. Il rivendicare la bellezza, questa è la festa della bellezza afro, no? Nel quartiere vengono fatte ogni anno giornate dedicate proprio alla cultura e alla bellezza di mamma Africa, di cui loro ancora rivendicano l'origine e le radici profonde. Dopo decenni anche lì di razzismo e di oppressione subita, questo ha portato poi negli anni a un riconoscimento, tanto che, come abbiamo sentito, anche in tutte le scuole pubbliche, anche quelle dei quartieri più alti dove ci sono tutti bambini bianchi, c'è un'ora o due a settimana di cultura afro che è entrata nello Stato, nella scuola statale. Ecco, questo è un momento molto bello per capire poi come anche nei bambini entri questo percorso, diciamo, di trasformazione, no? Sociale e politica anche. Quelli che vedete con la magliettina azzurra sono bambini della scuola Luisa Main, che hanno creato negli anni un gruppo che si chiama i contatori di storie, raccontatori di storie. Per il loro gusto di leggere e di cantare si sono imparati a memoria alcune fiabe, no? E hanno iniziato ad andare in alcune altre scuole ancora più povere del quartiere per raccontare ai bambini più piccoli, questo è un asilo, queste storie che loro avevano imparato. E a un certo punto sono arrivati in una scuola dove nessun bambino aveva neanche un gioco. Se ne sono rimasti così colpiti, loro che comunque ne avevano pochi, che appena tornati a scuola si sono interrogati su questo, hanno detto: ma cosa possiamo fare noi, i bambini, parliamo? E nel giro di pochi giorni hanno lanciato l'idea: raccogliamo tutti i giochi usati che abbiamo, quelli che non usiamo più, e ne hanno raccolti 6 scatole. Questo, io ho avuto la fortuna, perché è stata un'emozione enorme, di arrivare nel giorno in cui sono andati a consegnarne alcuni a questo asilo. Io, quella bambina lì che tocca quella bambola, la toccava come un pezzo di cristallo, lei che non aveva mai visto un bambolotto, un giocattolo, era emozionatissima. E quindi questi piccoli che già da subito imparano come dentro la comunità ognuno possa essere strumento di cambiamento. Poi ci sono tutte una serie di mobilitazioni anche più forti, dove ancora si unisce la comunità, il quartiere, vedete anche attraverso ovviamente la musica, le percussioni, che riguarda in questo caso la rivendicazione dell'acqua, sull'acqua potabile, che ancora in questi quartieri non arriva, quindi tutti i bambini della scuola, ragazzi, persone del quartiere sono scesi tutta una giornata facendo questa grande manifestazione in tante parti della città per promuovere il diritto ad avere un'acqua pulita e sana, avendoci lavorato su giorni per capire, anche per promuovere il riciclaggio dei rifiuti, eccetera, che purtroppo ancora nella cultura cittadina vengono buttati spesso fuori, appena fuori di casa dove loro stessi abitano, creando ovviamente una situazione malsana. Questi sono alcuni dei libri che c'erano nella scuola, vediamo appunto un libro qui con l'immagine di Paolo Freire e altri libri anche del folklore appunto culturale locale. E questo è un momento in cui di un incontro tra gli educatori, gli insegnanti di diverse scuole. A Salvador di Bahia ci sono più di 140 scuole comunitarie che sono nate, abbiamo iniziato a sentire negli anni 80, dal basso, proprio da gruppi come abbiamo sentito di mamme che sapevano un minimo leggere, che anche nelle spiagge dove era possibile hanno iniziato a insegnare ai bambini. Poi questo è diventato sempre più un movimento alternativo, proprio con una pedagogia diversa che poi si è scoperta, si è unita al lavoro, come dicevamo, principalmente di Paulo Freire sull'educazione popolare in Brasile, ma che in realtà è un movimento anche quello mondiale di pedagogia e scuola alternativa. Queste sono le parole chiave che loro mettevano a fuoco rispetto a chi è un educatore dentro una scuola comunitaria. E vediamo, insomma, le parole sono movimenti, conquiste, un lottatore, uno che continua ad apprendere, l'unione qui degli educatori, delle scuole comunitarie, un continuare a diventare anche più professionisti, però senza perdere il compromesso sociale con la gente e con la città. E quindi ecco queste parole chiavi che ovviamente per me cadevano come cose introvabili nella mia esperienza nella scuola pubblica italiana. Questo è uno dei tanti momenti di autoformazione che settimanalmente le insegnanti fanno. Questa è la biblioteca della scuola, una biblioteca creata dai cittadini, ognuno portando i libri che aveva, e aperta tutto il giorno per chiunque, dall'anziano, il ragazzo, il bambino, chiunque volesse andare a studiare. E ovviamente mi ha colpito anche qui che ci fosse uno scaffale, tutto questo scaffale di libri che riguardavano la politica, parola quasi pericolosa da usare nella scuola pubblica nostra, ti prendono subito come un pazzo. E niente, quest'ultima immagine di Beatrice in mezzo ai ragazzi, l'abbiamo già vista prima, è ovviamente quella che per me più esprime questo suo coraggio, questa sua passione indomita che ha dedicato tutta la vita, insomma, a questa scuola, a questa comunità, così come le altre donne dell'associazione che veramente abitano forse la domenica, è l'unico giorno, ma alcune volte vanno anche la domenica per finire di pulire, per sistemare un po' la situazione ininterrottamente, come è proprio una loro missione di vita con grandissima passione e vitalità. E questa è un po' la storia di Jamira. Prima di passare magari ai video, se ce avete voi qualche curiosità, domanda su questa parte, se possiamo magari accendere anche un po' una luce che vi vedo un po' di più anch'io, dopo magari vediamo un pezzettino di video della Colombia che sono un po' diversi. Anche anche emozioni, quello che va un po' aver resuscitato, ascoltare, vedere un po' queste immagini, queste parole. Io avevo una curiosità, nel senso chiaramente essendo bambini che provengono da una realtà sociale abbastanza difficile, la prima curiosità è qual è il livello di continuità, diciamo, della partecipazione di questi bambini a questa scuola, nel senso se questi esperimenti sono riusciti effettivamente a porre un limite alla dispersione scolastica e quindi il bambino che viene a scuola oggi ci viene anche domani e la settimana successiva, oppure se è una difficoltà che non si è riuscita a superare. E poi un'altra curiosità è quella che riguarda il passaggio da una classe a quella superiore, se ci si struttura in questa maniera, cioè se si passa da un primo livello a un secondo livello, in che modo, se ci sono, se anche là ci sono dei metodi di verifica e di che genere sono. Va bene, no, grazie delle domande. Allora, rispetto al primo, io sono stato lì la prima volta 4 mesi, poi sono tornato altre 3 volte, no? E a distanza più o meno di 6 mesi, proprio anche per vedere un po' nella continuità che cosa succedeva, cosa cambiava. E ho potuto constatare che la stragrande maggioranza di questi bambini che in parte avrebbero un problema di non trovare posto in una scuola, diciamo, pubblica, che sono ancora molto poche rispetto al numero di bambini che ci sono, ma dall'altra alcuni hanno già più di una volta abbandonato la scuola pubblica, dove abbiamo classi enormi di 50, no, alunni, e un metodo ancora molto autoritario, molto frontale come didattica, no? E quindi tutti loro che abitano principalmente la strada, che sono abituati a muoversi in piena libertà, in mezzo a tutti i rischi e i pericoli, però anche con questa autonomia di fare, di giocare, di nascondersi, di lavorare a volte, quindi guadagnarsi già qualcosa, si trovano dentro queste gabbie e a dover per forza rispettare questo adulto che ti impone di fare le cose, capiamo bene che se ne vanno. È molto diverso l'ambiente proprio che si vive dentro queste scuole. Per uno, perché un po' da quello che abbiamo detto, tutta la didattica parte ogni mese, era più o meno quell'anno che sono stato io, mensile, inizio mese si inizia a chiedere cosa vorreste sapere, cosa vi incuriosisce, qualsiasi cosa, la festa di carnevale, perché esiste il carnevale, piuttosto che qualsiasi cosa che i bambini propongono. Da questo poi, in degli incontri, diciamo, di progettazione, gli insegnanti iniziano a strutturare un piano cercando di inserire dentro tutte le discipline, quindi dall'approfondimento appunto culturale, storico, i problemi di matematica, okay, che entrano in quella specifica cosa. Vengono valorizzate tantissimo le uscite nel quartiere, quindi andare proprio a vedere, a mettere mano, a capire il perché dei problemi quotidiani. Usano tantissimo l'arte, cioè proprio il venerdì era la giornata dell'arte e educazione, per cui la capoeira, il maculelè, la biodanza, ho visto, piuttosto che il teatro, eccetera, forme per esprimere, quindi la musica, il canto, per esprimere la ricchezza, no, artistica che un bambino anche della favela scopre di avere, la bellezza quindi, ma anche lì un teatro sociale, no, tutti dei percorsi che sia li portano nel quartiere con un'altra faccia, non sei più il bambino che ci spaventa perché c'ha il coltellino, ci assale la banda, no? Ma i bambini che portano arte, teatro, che parlano dei problemi che noi adulti non abbiamo più il coraggio di dirci, no? Quindi c'è anche proprio una valorizzazione di un volto diverso di questi bambini, di questi che loro vivono. E quindi andare a scuola, qui l'ho proprio vissuto, è un'esperienza bella, di vita piena. Ma per dirti anche il momento dell'accoglienza della mattina, in questa scuola c'è una radiodiffusione in ogni classe e gruppetti di bambini che si prenotano quella mezz'ora, vanno nella sala dove c'è il microfono e leggono loro poesie, raccontano cosa è successo nel quartiere. Quindi è proprio una dimensione forte di vita piena, che posso dirti, con tutta la ricchezza che può offrire a livello culturale e ovviamente le difficoltà materiali, magari scrivere su quel pezzettino di carta perché non ce n'è tanto, però con un valore attorno che spesso questi bambini preferiscono venire a scuola che stare a casa o andare in strada. C'è proprio una ricchezza, una forza di attrazione, un passaparola per le amicizie che nascono dentro qui, che veramente salvaguarda quel problema altissimo tutto attorno nelle altre scuole, chiamiamole più tradizionali. Sul discorso della valutazione, loro appunto hanno abrogato pagelle, tutte queste porcherie, usano l'osservazione diretta, quindi costante del bambino, notandosi nel quaderno dell'insegnante, nel diario, i cambiamenti, di difficoltà, eccetera. Jamira, come coordinatrice, chiama ogni giorno 4-5 bimbi e in modo molto divertente, giocoso, gli fa scrivere piccole cose, sempre su cose che interessano loro, e si rende conto di eventuali difficoltà, appunto, chiamiamole più didattiche, che poi parlando con l'insegnante ragionano come integrare in un modo che non sia giudicante e pesante. Quindi è questa costante autovalutazione che passa attraverso l'osservazione principalmente. Alla fine viene dato ai genitori un dossier con tutte le disegni, anche foto, fotocopie del lavoro fatto, senza i voti numerici scritti stretti. Quindi il genitore ha modo di vedere tutto il percorso con una descrizione da parte degli insegnanti di come loro hanno valutato nel complesso il percorso dell'alunno. L'età è da che anni a che anni? O qui iniziano il mattino dalla scuola materna, quindi dai 2 anni e mezzo, 5, il pomeriggio dalla scuola elementare fino ai 10-11. E poi, da, come ti dicevo, metà pomeriggio sera iniziavano gli adolescenti, gli adulti, eccetera. Quindi fino comunque la scuola media era poi nella scuola statale. Tranne il fatto che appunto il pomeriggio, pur frequentando la scuola statale, spesso gli alunni di scuola media andavano lì a fare insieme i compiti, a ritrovare quell'ambiente comunitario che magari un po' avevano perso nella nuova esperienza. Ma un gruppo di lavoro, diciamo un gruppo classe, più o meno quanti bambini sono? Comunque tra i 30-35 minimo. Comunque. No, perché vedevo nelle foto anche magari lei seduta tranquillamente intorno a un tavolo con un gruppetto piccolo di bambini, riesce a farlo. Lì era il suo ufficetto, lei lì come coordinatrice pedagogica non aveva la classe, quindi come perché dicevo poteva chiamare anche 2-3 oppure andare in supporto con l'insegnante dopo averlo concordato e fare un'attività insieme. Perché sennò per il resto sono proprio un po' delle classi simili a quelle che abbiamo noi come sì, struttura. Sì, però con molto lavoro di gruppo, molto sì, tutte forme diciamo non frontali, che magari anche da noi qualcuno ancora le fa, nella scuola sempre meno purtroppo. No, io ovviamente sentendo le cose, io lavoro a scuola, quindi quello che la prima cosa è il contrasto tra quello che uno vive tutti i giorni e questo, quello che fanno loro, che sarebbe poi ciò che secondo me si deve fare, si dovrebbe fare. Ed è assurdo secondo me per certi aspetti pensare che lì, in una situazione in cui manca tutto, magari anche tante persone che dicevi tu che si sono improvvisate insegnanti proprio dalla necessità eccetera, riescono ad applicare le idee di pedagogia più avanzate, che poi in parte sono anche antiche, perché sarà anche 2 o 3 secoli che si dice che si dovrebbe fare in questo modo, e si continua a dirlo anche con le ricerche più attuali. Nella scuola, almeno quello che io mi trovo intorno, è sempre più un tornare indietro alla frontalità più assoluta, ai bambini zitti e muti, eccetera. Proprio anche un po' un movimento di controriforma in qualche modo. Ricordo quando andavo a scuola io da bambina, non dico che fosse così, ma ci si avvicinava almeno lo sforzo un po' di più, insomma, sì. Alcune scuole che facevano sperimentazioni, qualche scuola in più c'era. Cioè. Adesso quello che c'era piano piano viene tacitato. E una delle prime cose che tu dicevi prima che mi ha colpito un sacco è quella dell'umore, perché personalmente vivo questa cosa con grande sofferenza io ogni giorno, perché vado in una scuola che è anche piuttosto grossa, ci sono una scuola elementare con 3-4 sezioni, eccetera, quindi sono tanti bambini, centinaia, è un edificio in cui tu passi da fuori e non senti un rumore, entri dentro, passi per i corridoi, non senti rumore, senti ogni tanto la voce di un adulto, ma neanche tanto, perché spesso scrivono e stanno zitti anche gli adulti, non so cosa facciano. E infatti ovviamente io ho le mie difficoltà, nel senso che poi in classe mia sento un gran casino e quindi ogni tanto appunto mi mandano il bidello che apre la porta, mi hanno detto che forse qui c'era una classe scoperta, sì, perché si sentivano i bambini. E quindi la cosa che tu dicevi prima, c'è un passaggio tra una continuità tra la strada, la vitalità, la vita della strada e la vita dentro la scuola, che è normale, tutto cielo, cioè, il fatto che invece fuori ci sia vita, anche se da noi magari meno che lì, cioè, però bene o male, la morte fuori, morte dentro, esatto, però un po' di più. Sì, sì. Dentro zero, infatti uno appena suona la campanella la prima cosa che fa è urlare. Oggi me l'hanno detto, ma abbiamo il permesso di urlare quando suona la seconda campana, che poi iniziano le vacanze di Pasqua. Poi con me lo fanno anche quando non suona la campana, però è tutto. Insomma, bisognerebbe prendere esempi totalmente. Anche il fatto, appunto, la valutazione ovviamente secondo me è un falso problema, nel senso che appunto, ci si pone continuamente questa questione, ma ovviamente non c'è niente che possa sostituire l'osservazione, la partecipazione, il fatto di fare dei lavori insieme, e tu te ne rendi conto perfettamente di che cosa ha bisogno quel bambino. Invece nel momento in cui tu devi andare a standardizzare, a fare delle verifiche come si fa da me, adesso è venuta questa moda di fare le verifiche uguali per tutti, un circolo didattico di 5 o 6 sedi, facciamo le verifiche tutte uguali ogni 2 mesi, che è una cosa proprio l'antipedagogico più totale. Non verifichi proprio niente, non ha nessun senso, invece chiaramente con l'osservazione come valuti? Sono lì accanto e valuto. E poi appunto il fatto di dover standardizzare tutto, e poi visto che tu ce l'hai e tanto citi le prove in base, cioè, prove in base sono una volta ogni tanto, ogni 2 anni, 3 anni, 5 anni, ma invece quest'idea dei dirigenti scolastici che ogni 2 mesi tu devi fare tutto, appunto devi arrivare allo stesso obiettivo, essere addestrato a fare lo stesso tipo di esercizi, in contrasto con queste persone che all'inizio, appunto ogni 2 mesi, invece che esserci la riunione delle maestre che predispongono la scheda tutto uguale, ogni 2 mesi c'è, cioè, chiedere ai bambini cosa volete sapere, è fondamentale. Che poi la cosa che io, scusate se mi sfogo, parlo ogni tanto, perché quando parlo con le mie colleghe ovviamente, cioè parlo i primi 2 minuti poi sto zitto. Allora, no, volevo dire, cioè, quando mi capita di chiedere ai bambini, cerco di fare delle riunioni settimanali con loro e di dire, dite anche voi almeno una parte di tempo, anche se abbiamo questi obblighi qua, però almeno una parte di tempo proviamo a tenercelo per decidere noi delle cose da fare. E i bimbi hanno una difficoltà pazzesca, perché ovviamente nessuno glielo chiede mai, a casa non penso, a scuola tanto meno che mai. Quindi è molto difficile avere da loro delle proposte di attività. Siamo riusciti ad arrivare a portiamo i loro colori, cose delle acquerelle, cose di questo tipo qua. Una volta mi hanno detto facciamo dei corsi di lingua, perché anche lì ci sono bimbi che vengono da tutti i paesi, allora chi insegna l'albanese, chi il rumeno, eccetera. Quindi ogni tanto qualcosa esce, però molto, molto, molto poco, molto difficile tirare fuori queste cose. Un po' il parlarsi, almeno l'utilità che ha un po' a risolvere delle loro questioni di relazione, questo sì. Però almeno i bimbi piccoli fare proposte. Io vorrei sapere questo. Mi è capitato tante volte, ma te cosa incuriosisce? Oppure facciamo una ricerca su questo argomento. Cos'è che ti piacerebbe? Difficilissimo, difficilissimo. Poi l'altra cosa che mi veniva in mente è quella dei giochi. Una scuola in cui i bimbi non hanno giochi. Paradosso, nelle nostre scuole i bimbi non hanno giochi. Magari a casa sono pieni. Altri invece no, ci sono anche quelli che a casa non li hanno. Però a scuola non c'è niente perché distrae. E quindi ogni tanto la scuola da noi sembra proprio, come si chiamano quelle camere dove mettono alle volte i prigionieri o i malati mentali perché hanno paura che diano le testate nel muro. Quelle tutte senza niente dentro, foderate. Imbottite. È un luogo completamente privo di stimoli di qualsiasi tipo. I bambini poi si vieta di portare le loro cose da casa. In giardino, dove potrebbero giocare con legni, foglie, non si va, perché non si va. E quindi il contesto è quello. Poi chiaramente se uno la pensa in modo diverso, cerca di ovviare, di cominciare a portare cose, o far portare, o costruire. Però la tendenza è quella di questo ambiente sterile, loro non hanno la libertà di toccare niente, di fare, perché devono solo ascoltare te, solo avere la scheda. E in tutto ciò concludo con la questione della collegialità, perché tu poi nel libro ne parli anche parecchio, insegnanti che hanno un progetto comune, anche della questione dello scegliere gli insegnanti che appartengono a una stessa comunità, che abbiano in mente di condividere un progetto politico-pedagogico. È chiaro che da una parte appunto si dice la trasparenza delle graduatorie statali, eccetera, però dall'altro ovviamente tutto questo non è possibile, tu sei a fianco con persone che hanno idee pedagogiche e politiche assolutamente opposte. E quindi se invece ci si riuscisse a ritrovare con dei gruppi che hanno un minimo di omogeneità, perché effettivamente alle volte, poi o da precari o in prova come sono adesso, eccetera, è chiaro che magari fai anche meno casino, non ti metti a appunto, andare alle testate nel muro sapendo che poi dopo un po' te ne vai, eccetera. Magari in futuro sarà anche diverso di personalmente il modo di intervenire. E forse anche questo è il motivo per cui tentano di tenere quanto più possibile la gente precaria, perché è chiaro che tu intervieni meno e non riesci a creare relazioni, eccetera. Però è chiaro che appunto se si riuscisse a creare delle situazioni in cui gli insegnanti in qualche modo possono scegliersi fra di loro, scegliere un dirigente, un coordinatore, una comunità, puoi fare un progetto, altrimenti appunto siamo lì seduti intorno a un tavolo. Se il mio obiettivo è Z, il tuo obiettivo è A, come caspita facciamo? Perché ci dovremmo parlare? Parliamo, sì. Alle volte si riesce a parlare con i colleghi della stessa classe perché bene o male almeno si conoscono gli stessi bimbi e almeno se non sul lato didattico ma sul lato umano li si osserva insieme. Alle volte c'è la fortuna di condividere almeno una sensibilità, alle volte no. alle volte completamente nemmeno quello, cioè c'è la visione del bambino completamente opposta tra mente. E quindi appunto la collegialità diventa una cosa completamente formale. E poi la società, che da noi non è organizzata in comunità, e quindi appunto i genitori non si parlano tra loro, non parlano con noi, noi non parliamo con loro, gli insegnanti odiano i genitori odiano gli insegnanti, tutti schifano i bambini tendenzialmente. E vabbè, basta. Io volevo chiederti invece, cioè come, cioè chi sono gli insegnanti? Non so, mi pare, non so se ne hai già parlato, sono tutti a due secondi, ma quello che hai visto tu, sì, ovviamente, chi sono, come arrivano lì, come funziona quel meccanismo, cioè, come l'insegnante entra a far parte del tuo. Cioè, allora, c'è appunto uno storico differente, no? Cioè sono i primi insegnanti, tra virgolette, erano proprio genitori che di fronte al vuoto assoluto di proprio possibilità di accedere a qualsiasi tipo di scuola, se non quelle private pagando, ho detto vabbè, io ho un po' di tempo, lunedì ho un'altra giornata libera, il mercoledì che io so appena scrivere, tu un po' leggere, tu un po' di matematica, insegniamo noi. Ma quindi è partito il nucleo, tra cui diciamo Jamila è già appena dopo, però delle fondatrici sono proprio persone che per passione hanno detto facciamo quello che possiamo, no? Poi anche lì, essendo comunque un percorso che è cresciuto a livello anche di numero di questa scuola, eccetera, quindi si è creata una visibilità, una necessità di regolarizzazione un po' della cosa, c'è stata una legge statale che ha imposto una formazione universitaria. Immaginiamoci cosa voleva dire per persone che magari inizialmente sapevano poco più che leggere e scrivere, e questo è stato ben faticoso, però alcune, perché lì alcune scuole hanno dovuto chiudere, cioè non avevano gli strumenti, o l'alternativa era prendere su neo studenti appena laureati che però appunto non avevano nessuno storico di vita in questi quartieri, di lotta sociale eccetera, quindi avevano delle lacune enormi rispetto al progetto che dicevamo politico pedagogico, oppure dover fare sforzi economici anche per pagare questi insegnanti che dovevano andare i pomeriggi sere, quasi tutte le sere per un anno almeno, fare questo corso, che non avevano i mezzi loro, perché erano già poverissimi, quindi la scuola doveva farsi carico anche di pagare questi studi universitari. Alla scuola Louisa May l'hanno fatto e quindi un po' tutte, anche Jamila, anche le persone più anziane. Nel caso in cui non l'avessero fatto, dopo c'era un'età, ma c'è un limite massimo di anno dopo il quale non era più ammissibile, cioè ti veniva invalidato il titolo che poi rilasciava. Quindi quello ha portato comunque un bel trambusto, da una parte forse anche di necessità di dialogare anche con le nuove generazioni, no? Perché poi io di questo a volte parlavo con Jamila, c'era comunque anche quella visione un po' ideologica generazionale di chi dice ma noi sappiamo che sono le cose, i giovani non ne sanno niente. Sì, parte è vero, in parte si può anche, no, trovare una mediazione, oppure non è per forza colpa loro, cioè se il Brasile è cambiato e non hanno vissuto sotto le dittature come loro, quindi tutta quella lotta di comunità di base eccetera, ok, gli manca, potete integrarlo in parte voi, però magari loro portano altra freschezza anche, no? E questo c'era come sempre un po' anche, no, nei nostri gruppi può capitare un po' di rigidità anche delle vecchie guardie rispetto ai giovani, e questo Jamila ci dava giù piuttosto nel pretendere proprio che anche per loro fosse una opzione di vita la scuola, poi veniva la famiglia personale, quindi insomma molto forte questo, quindi resta sempre un tema aperto, tanto che c'è un ricambio che ho visto molto alto, soprattutto negli insegnanti più giovani che magari vengono un anno o due con anche buone intenzioni, però poi tra uno stipendio da strafame, orari, senza orari, perché ogni quasi ogni pomeriggio riunioni, approfondimenti, le marce, andare alle riunioni di quartiere, di qua e di là, appena una un attimo diceva ho anche un po' di vita privata, se ne va, purtroppo, magari dopo aver investito un po' di anni ho creato una professionalità. Tanto che Giamira a un certo punto è arrivata proprio a riconoscere io non faccio più la coordinatrice pedagogica, non riesco a farlo, sono troppo impulsiva, troppo pressante verso gli insegnanti per il suo carattere, e quindi stava facendo un passo indietro, dicendo mi metto piuttosto nell'organizzazione politica dell'associazione e lì vado a rompere le scatole dove di dovere e lascio che sia qualcun altro più un attimo capace di accogliere le diversità ad accompagnare il gruppo degli insegnanti. Un bellissimo percorso anche questo di consapevolezza. Essendo scuole comunque, diciamo, pubblico-private, cioè come loro hanno rifiutato il fatto di statalizzarsi, quindi di avere l'ingresso, no, economico statale, è il gruppo, diciamo, di coordinamento dell'associazione che sceglie una o una insegnante. Quindi lo Stato l'ha riconosciute dopo tanti anni che erano pieni queste scuole? Sì, le ha riconosciute a livello di dire ok, tipo parificato. Quindi il titolo è valido. Valido, assolutamente. Però poi ha fatto la proposta ulteriore di dire siccome ci sono problemi, avete problemi economici, noi come Stato. Però volevo. Però, e dopo ci lasciate decidere come Stato. E quindi come si e loro hanno rifiutato. Cioè, lo stipendio da dove viene? Loro ho visto fare di tutto, cercare progetti con ONG del Canada, di tutte promuovere percorsi di formazione appunto con gli adulti da cui poi ricavavano qualcosa per poter mantenere la scuola, andare appunto a smuovere tutte le varie fondazioni che ci sono, perché comunque è una realtà anche ricca attorno alla città, quindi non avere problemi, andare dai partiti a dire partito so, comunista, se ci credete in questo progetto aiutateci a sostenerci, cioè una vitalità anche dal punto di vista proprio della ricerca fondi enorme, però anche un auto, come si può dire, nel caso appunto di un anno in cui c'è stata appunto questa ONG canadese che le ha appoggiate per un tot di anni, a un certo punto ha detto dobbiamo ridurre, lì l'opzione era o ci riduciamo tutti il salario che è già minimo o qualcuno sta a casa, loro non ci hanno avuto nessun dubbio di dire ci riduciamo tutti il salario, nessuno di noi starà a casa, no? Quindi delle scelte forti a livello proprio di precarietà di vita, insomma, anche appunto io ero nella casa di Giamira, erano due stanze che veramente era il tutto che aveva, insomma, lei non aveva, aveva un figlio avuto molto giovane ma non aveva vita familiare, quindi delle scelte abbastanza totalizzanti di una vita per un servizio diverso. E quindi di fronte a questo si va oltre, no, la professione. Ma in parte credo che una cosa del genere possa funzionare per una persona. Se tu effettivamente fai parte di quella comunità e anche la tua famiglia, la tua vita privata è coinvolta in questa cosa. Mi viene in mente anche un po' Emily della scuola di Osimo, la scuola di libertà delle Marche. E lei una cosa che raccontava che lei ha iniziato questo progetto proprio quando ha avuto la bambina e che la sua famiglia è dentro la scuola, quindi lei dice ma tu lavori tanto, ti stanchi eccetera, ma no, perché non c'è differenza tra casa e scuola, perché io a scuola sto bene, il mio compagno c'è, mia figlia è qui, è con me e con i bambini si vive in una dimensione appunto familiare, non è quello stancarsi a scuola quando devi andare lì a importi su una classe che non vuole stare lì. Quindi è la tua vita, sono i tuoi affetti. Altrimenti è chiaro che noi con la concezione di scuola come orario, lavoro, salario, non lo riusciamo a concepire. Sì, oltre che ovviamente quella visione, diciamo, politica di difesa dei diritti, che anche quella è sempre più fuori dal nostro idea. Personale politico, il ruolo proprio dell'insegnante come promotore di una rivendicazione, quindi lì c'è anche questo profondo valore che fa fare anche questi sacrifici, no? Non so se ti ho risposto abbastanza. Sì. tipo la domanda voleva anche essere come si gestiscono le risorse, ma vabbè. Sì, sì, vabbè. Ho visto proprio una creatività unica, partecipare a bandi della Petrobras per progetti comunque alternativi, cioè anche lì non aver paura di sporcarsi un po' anche le mani, però sempre salvaguardando i diritti e i valori, insomma. Sì, sì. Mentre magari nella scuola colombiana lì ancor di più invece ho visto per esempio rifiutare i soldi della Coca-Cola, che pure promuoveva le scuole, no, i soldi della Coca-Cola non li vogliamo, anche se erano per un progetto sociale, politico, no? Quindi andare ancora di più a dire no, non solo ha valore il progetto, ma andiamo anche a fare un'analisi di chi ce li dà, no? E anche lì piuttosto stiamo 3-4 mesi senza stipendio. L'ho pensato con la storia di Babbo Natale, sinceramente. Dice a chi chiedi questo regalo? Un po' un problema. Cioè, senza giudicare, ovviamente, però insomma, se lo guardi da un certo punto di vista, è questo Babbo Natale che arriva tutti i Natali da. Il regalino. Dalla grande azienda sembra un po'. Sì, io ecco lì c'è una cosa che ci ho messo un bel po' a capire. Però immagino che siano posti debiti, cioè magari c'è tutto un discorso. Sicuramente infatti, ci saranno posti debiti. Cioè loro, nella loro visione, addirittura sono convinto che credono che saranno loro a cambiare la mentalità dell'azienda attraverso questo percorso che parte da una relazione forte, anche emotiva, con questa esperienza e con i bambini. Te lo dico perché. Vabbè, poi ognuno trae le sue riflessioni. L'anno dopo che sono tornato, si stavano organizzando, non capivo, stavano raccogliendo fondi per un viaggio, alcune di loro, no? Dove andavano? Andavano a Washington. Un viaggio a Washington, madonna, con quei costi che c'è. Erano gli anni di Bush, no? Ancora gli anni più duri. E poi, così, chiedendo. Cioè, non capivo, loro avevano organizzato un viaggio per essere più vicini possibile alla Casa Bianca, stare lì una settimana a pregare per Bush, convinti che Bush sarebbe cambiato. Bush o gli Stati Uniti? E beh, dopo un anno è andato su Obama, a parte che non era prevedibile. Cioè, la loro prospettiva di forza, loro che parte della comunità, era non si fermava davanti a niente. Cioè, però in un'ottica incredibile, cioè non andiamo, gli mettiamo la bomba, ma andiamo perché lui adesso, così militarista, ha bisogno di noi. Cazzo, cioè io mi sono inchinato, cioè, è un giudizio impossibile da comprendere le nostre, forme culturali. Lì ovviamente nel Brasile e Sud America c'è un intreccio profondissimo, antichissimo, tra spiritualità, movimento politico, sociale, eccetera, eccetera, no? La comunità di base, così. La teologia della liberazione, tutto questo è un mix incredibile. Però, capisci, cioè, io credo che anche quell'ottica noi andiamo dalla Petrobras a chiedere i soldi, ma non sono loro che ci, siamo noi che. No, anche perché appunto quando si trattava di scendere a compromessi davvero, cioè prendersi gli insegnanti. Chiaro, sì sì sì. No, oppure dire noi piuttosto stiamo senza assegno, che. Però, come dire, non siamo preventivamente contro nessuno, però parliamoci, cioè andavo dal direttore, ci stavano anche 2-3 ore facendogli una testa così, per dire ma tu che pensi, che prospettiva hai, qual è il tuo progetto politico-pedagogico. Poi c'è anche una bella differenza magari tra la Coca-Cola e. Sì. Un'azienda locale anche. Sì, quelle di cui parlavano del Babbo Natale erano aziende locali, poi la Petrobras è una multinazionale invece del petrolio, quindi, ma lì erano progetti non per il Babbo Natale ma per eventualmente finanziare formazione degli adulti da sera. Sì, quindi cioè, è veramente una dimensione difficilissima da capire con le nostre coordinate di senso. Ascolta, ma secondo te, Jamira, per esempio, perché, quali sono i motivi che l'hanno portata ad accoglierti, ad essere contenta di averti a scuola, a casa sua? Cioè. Loro, tutte e due queste realtà, parlano dell'importanza di non restare chiuse nel loro cerchio, per quanto ricco e vitale che è la comunità, ma aprirsi proprio anche in un percorso di scambio con il mondo, con un mondo che possa portare un arricchimento reciproco, no? Quindi capito che io non andavo lì come il grande sapiente dell'Università di Padova che veniva lì a dire vi insegno io, fermi tutti, che cazzo state facendo, vi spiego io la pedagogia come si è fatta, ma che andavo lì molto umilmente perché veramente ero appunto nel bisogno io di capire cosa significasse sta scuola che ho iniziato da pochi anni a insegnare, cioè qua, già non ci siamo, io non ci sono, però potevo, no, quando proponevano delle questioni delle che, mi venivano dei riferimenti ad alcune cose che avevo studiato, sperimentato, che offrivo liberamente, loro approfondivano, buttavano, ottenevano. Capito questo, che quindi era un gioco veramente autentico alla pari, per loro è stata una risorsa, questo proprio scambio quotidiano. Nulla più, perché al di là di dare un piccolo rimborso spese a Giamila che mi ospitava a casa, non è che ne abbiano veramente guadagnato nulla. Con quello che, quel poco che dai libri guadagno nel venderli, ecco, lo invio giù, ma questa è una cosa che è venuta dopo, eccetera. Quindi è stata proprio questa gratuità anche, e quando gli spiegavo, e lì ho trovato vera comprensione, quando gli spiegavo la realtà dei bambini, dei ragazzi, delle scuole da noi, cioè veramente ne stavano preoccupate. Cioè gliene parlavo come ne ha parlato adesso lei, no? Cioè dicevo da noi, bambini con gli occhi spenti, silenzio, queste cose non si fanno. Cioè io le guardavo a volte commosse, cioè, come ci guardi commosse? Cioè a loro sembrava di non fare nulla, no? Di fare le cose normali così. Ragazzi, ma non avete idea, l'Europa, l'Italia e altre realtà che conosco, in che livello siamo di scuola, di scolarizzazione, di barbarie proprio. E loro là si sentivano anche un po' valorizzate, però seriamente preoccupate, quindi hanno anche capito che un po' anche attraverso di me potevano far arrivare un qualcosa qui. Non era quindi la cooperazione là, ma era proprio il poter loro portare una spinta, una voce nuova, non è vero, no? Come dicevi tu, sono voci che nei secoli anche da noi sono esistite e hanno provato a sperimentare, però adesso spenta e chiusa nei musei, no? Quindi anche in questo io le ho proprio detto, no, ma guarda, voi non avete idea di cosa è l'innovazione che per me, che ho iniziato proprio a insegnare, questo è. Poi nei ricordi degli insegnanti che hanno fatto gli anni 70, le loro sperimentazioni, questo era un po' più pane quotidiano, ma adesso non ci siamo proprio più. E non era neanche i giorni di oggi, ma era quasi 10 anni fa, insomma, quando sono partito. E quindi adesso sarebbe ancora peggio la situazione. Poi io sono tornato anche 2 anni fa, proprio a Salvador de Bahia lì, e è incredibile come ogni volta che andassi ci mettevo un sacco a capire tutto quello che era evoluto, cambiato, successo, senza il sostegno economico, ma proprio per una progressione di logica, di visione pedagogica, politica, che aveva portato a rivoluzionare e cambiare tutto. Ed era una meraviglia, da noi passano 10 anni, come cambia niente, anzi in peggio, no? Cioè, perdi pezzi. Io non lo so, però da quello che mi racconti tu, cioè, le cose sono cambiatissime anche rispetto a quando andavo in scuola io. Ah, beh, sì. Molto in peggio. Sì. Poi, lo so, io ho fatto una scuola un po' fricchettona, però... No, io niente ci... Sì, ma secondo me, beh, poi dipende magari dai contesti. Tanto magari i contesti di paese dove sto insegnando io, li posti piccoli, adesso sono anche un po' più arretrati. Rispetto alle città. Magari in città può essere che trovi alcune isole un po' più, però sempre. La mia era una scuola in cui si erano un po' accettati gli insegnanti, però forse in quegli anni erano scuole sperimentali, certo. Sì, c'era ancora possibilità, un qualcosettino in più sicuramente c'era, adesso era la cosa dei tagli, però io alle volte non me lo spiego nemmeno. No, nel senso che, scusa? A volte i tagli. Sono i tagli, nel senso, appunto, chiaramente ci sono alcune situazioni pratiche, nel senso un tempo pieno con molte ore di compresenza permette agli insegnanti senza grossa fatica di fare laboratori, di fare percorsi per piccoli gruppi, eccetera, come li facevamo noi. Certo che se tu sei sempre da sola con una classe di 25-30, in uno spazio ridottissimo, io l'anno scorso ero in una classe di 29 e non riuscivo neanche a fare lezione frontale perché non riuscivo a girare fra i banchi a vedere un quaderno. Quindi questi sono i tagli, sono alcune situazioni che ti rendono il triplo più faticoso fare le cose. Quindi o tu c'hai una passione pazzesca, ma se sei appena appena un po' stanco, un po' normale o che c'hai cavoli suoi in famiglia, non ce la fai, ti lasci un po'. No. Mamma comunque già dipende dal letto. Quando io andavo alle elementari, non so se ci fossero ancora le compresenze, ma cioè come non venivano bene, esatto. Cioè, c'era il mio maestro, ok, ma. Un altro elemento, non so, nel mio liceo, l'anno dopo che mi sono andato, avevano introdotto il badge. Per entrare? Il badge per entrare. Ah, sì, lo senti questa cosa. Cioè, c'è la macchina all'ingresso, tu passi con il tuo logo e è tutto automatico, no? E l'anno prima che io ero in quinta superiore, invece avevano introdotto la roba a livello informatico, cioè tu devi passare da un ufficio e segnarti, non c'era il badge. E avevano tolto agli insegnanti il registro, cioè ho fatto un po' di passaggio, poi sono finiti a usare il badge. Cioè ti trovi il cartellino? Sì, come il cartellino, cioè tu quando parli dell'ambiente ti ricorda l'ospedale, il carcere, esatto. o quindi ovviamente questa non è un'istituzione totale, cioè. È totalizzante in un altro senso, sì. Perché la tua vita, non c'è appunto differenza tra l'istituzione. Però una cosa veramente che io mi chiedo ogni giorno è perché gli insegnanti appunto accettano la qualsiasi. E io vedo dei collegi docenti in cui la gente non fa altro che calare la testa, sì. Poi si lamentano tutti perché tante cose fanno schifo a tutti. Non è che sono tutti scemi gli insegnanti, la testa ce l'hanno. Però il dirigente dice, si fa così, e vabbè, ha detto la dirigente, ma la dirigente cioè, non è che ha potere di vita e di morte su di te, insegnante di ruolo magari. Ma caspita, ma facciamoci sentire un minimo, invece no, sì, ma perché? Questa greggificazione. Beh, sulle persone. E comunque sarà sempre peggio, visto che le persone saranno tirate su. Però qualche annetto fa, appunto, magari c'era meno questa cosa. Cos'è successo, appunto? Abbiamo avuto 20 anni di Berlusconi, una serie di cose, cioè una questione veramente più sociale. Però dentro la scuola sì, c'è stato appena appena i primi anni, quando c'era un po' che era la Moratti, le prime cose, c'è stato un po' di vocione così per fermare un po' di cose, però hanno solo ritardato un po', vabbè aspettiamo un po', e poi le hanno riproposte cambiando i nomi, i colori, e sono sempre più entrate, no? Sì, vendendole sempre per questioni economiche, non si può fare diversamente, però anche lì ci confrontiamo con scuole dove l'economia è l'ultima preoccupazione. Se dicono che hanno inserito, cioè l'altra roba che hanno fatto, si parla di crisi, io so che hanno inserito la lavagna, i tablet, stanno investendo migliaia e migliaia di euro in stronzate, quando potrebbero, a parte investire per migliorare la qualità, poi il problema rimane sempre il modello e lì non infatti è un piano abbastanza scientifico, però appunto la cosa domani verranno fuori da questo sistema, però la cosa inquietante secondo me è che appunto al di là dei tagli e di tutte le situazioni pratiche pesanti che alla fine appunto a livello centrale ti riescono a imporre, però ciononostante io ho la sensazione che gli insegnanti non usino comunque del potere che hanno. Sì, che io vedo persone, c'è ancora persone adulte appunto avere paura di un dirigente, ma che senso ha questa, ma come fa ad aver paura, ma perché? Ma probabilmente chi è più consapevole come te è sotto ricatto. O comunque cioè, sai che non sarai lì per più di un anno? Sì, chi invece ha di ruolo non viene più notato. Ma perché? Invece appunto la cosa carina come in Italia è che appunto se sei precario appunto c'è più il fatto non tanto del ricatto ma quanto appunto che non... A me mi viene quasi da dire buona educazione, nel senso che se sei appena arrivato da una parte prima ascolti, prima cerchi di capire e poi fai casino anche normale. E, poi, una volta che sei di ruolo, però sei difficilmente ammovibile, non ti possono fare. Però lì è il punto, quello diceva lui, il problema lì non sono i tagli, no, il problema lì sono le persone. Persone, dico, ma perché siamo così? Ma ti dico, nella mia esperienza, peggio ancora, siccome io, tornato da lì, ho iniziato ormai da 10 anni a fare un progetto sulla partecipazione attiva dei bambini, dei ragazzi nella scuola, per almeno 5 anni con un'adesione incredibile, non mi aspettavo, dopo figure queste cose, 20 classi più tra scuola media e scuola primaria dove insegno, un sacco ogni anno, e poi sono stati i colleghi stessi, io non ho mai avuto problemi con i due dirigenti che sono cambiati, che hanno capito la cosa e l'hanno anche sostenuta, ma delle reazioni veramente tremende da parte dei colleghi, perché vai a mettere in discussione comunque il potere, perché nel momento in cui dai più spazio ai bambini e ai ragazzi, cioè chiedi a loro cosa volete fare, se lo fai realmente poi tu ti metti un po' al servizio di quello che loro dicono, e quindi no, so io cosa devo fare, punto, zitti. Ma secondo tutti. Me non è... difficile di insegnare. Quello è un problema anche molto personale, secondo me. Cioè, è proprio una questione, ma proprio intima, non so come dire, le persone si sentono rassicurate da un'istituzione di tale, dal loro piccolo potere, si sentono rassicurate. Ma se vuoi dire, tra volte, secondo me è anche un lavoro su se stessi che bisogna fare, assolutamente. Ma secondo me non è neanche tanto, almeno con la scuola primaria, almeno... Non è tanto il potere che l'insegnante sente, ma è proprio il fatto che forse gli insegnanti hanno un po' poca voglia di fare, ma anche un'autostima molto bassa, nemmeno nella primaria, magari al liceo può essere diverso. E quindi il problema è che se loro insegnano in maniera ripetitiva attenendosi al libro, perché hanno la sensazione che loro le cose non le sanno, e quindi e non hanno magari o la voglia, o anche appunto anche per fare ricerca, dire mi metto a studiare, ci vuole un po' la voglia, un po' l'autostima. E nel momento in cui tu vai a proporre un modello in cui tu ogni giorno studi, ogni giorno ti prepari, anche ai bimbi gli dici questa cosa non la so, vado a casa, la vado a vedere, domani te lo dico, la collega che è lì accanto ti sente, non ridisce, perché invece loro tendono a dire, a sminuire la domanda del bambino, a troncarla, perché hanno paura a dire io questo non lo so. A me personalmente non me ne frega niente di dire non lo so, perché so che ci sono 275 miliardi di cose che non so, che vorrei sapere, ma che sono perfettamente in grado, se voglio sapere una cosa, di andarmela a cercare. Altre persone che magari non hanno avuto la fortuna di avere una formazione adeguata o comunque appunto di sentirsi bene con se stesse, questa cosa le fa star male, mi dispiace anche. Perché lì proprio c'è un problema, cosa intendiamo per educazione, cosa intendiamo per fare l'insegnante, quello è un problema che c'è sempre stato. Cioè, anche volendo fare la lezione frontale, però bene, comunque non andava bene neanche prima. No, perché... Poi al liceo cominciano ad essere proprio altri problemi più molti. Centrismo, quello è un discorso. Ma davvero c'è un problema al contrario. Che vuoi invece esporre quello che tu sai e non vuoi essere messo in discorso. Allora, una cosa volevo dire però. Dimmi tu avevi il video che dura? Ma sono vari capitoletti, possiamo vederne qualcuno. Ditemi voi fino a. Perché appunto io so che loro alle 9:30 hanno la lezione di danza. Mm-hmm. Che ore? No, sono le 9. Meno 5, sì, meno 4 alle 9. Ci vogliamo vedere dei pezzi di video? Va bene, ok, spengo le luci. Di qua così loro mangiano tanto. Adesso. Ma dicendo questo è una cosa che scegliamo di fare perché ha un suo valore in questo momento sociale rispetto alla famiglia, e poi sperimentandola la cosa interessante che loro sono arrivati a individuare nel concetto di lavoro degno, come il lavoro con alcune condizioni in cui svolgerlo sia un'esperienza formativa che integra quella della scuola, diciamo. Per cui loro arrivano a dire: anche se non ne avessimo più bisogno, noi continueremo a voler lavorare in parallelo ad andare a scuola, poter fare anche attività, gioco, eccetera. La questione grossa è appunto capire cosa intendiamo per lavoro degno, ma non ve lo dico io. Ascoltiamo un po' Natalia e Jennifer che ci spiegano un po' questo. C'è un'intervista che è stata fatta a Treviso, perché per un po' di anni con un'associazione di Treviso riuscivamo anche a far venire alcuni di loro e andavamo nelle scuole, nei gruppi, anche nei sindacati, eccetera, ad ascoltare questa cosa strana di bambini e ragazzi che noi vogliamo il diritto al lavoro. Una proprietà di linguaggio, tra l'altro, pazzesca, una determinazione. E non c'era niente di preparato, eravamo lì, qualche domanda, e sono parecchi come lei che abbiamo sentito adesso. A voi, le domande. Posso chiedere, perché lei parlava, sono quindi a livello anche internazionale, sono quasi tutti paesi del terzo mondo, diciamo, dove esistono queste realtà? Sì, dal Sud America appunto che è stato il primo, poi il movimento si è sviluppato in Africa e da ormai una decina d'anni anche in Asia è arrivato. Anche piccole esperienze di organizzazione, perché in realtà non sono pochi i bambini lavoratori anche negli Stati Uniti piuttosto che in Europa, in Italia. C'è abbastanza, è molto sommersa la cosa, ma in realtà sta aumentando molto. Però forme organizzate sono ancora quasi inesistenti, quindi la differenza loro appunto sta proprio in questo. Mentre sono non so quante decine di milioni di bambini lavoratori nel mondo, sono pochi quelli che hanno fatto questo percorso di accompagnati. Anche lì è simpatico perché gli adulti si chiamano accompagnanti, come nell'esperienza un po' di educazione libertaria, per prendere consapevolezza del valore in sé, che l'essere bambino lavoratore non è un delitto, non è un peccato, non è essere brutti e cattivi. Dall'altra anche della lettura delle dinamiche locali e mondiali, per cui comunque c'è la povertà, eccetera, eccetera, perché i genitori, le famiglie non riescono a trovare lavoro e quindi noi ci troviamo. Quindi è un percorso incredibile, dalla base all'alto, perché appunto poi ci sono vengono scelti dai compagni, dal piccolo gruppo a livello nazionale, a livello mondiale. Io ho partecipato a Berlino all'incontro mondiale appunto nel 2004, credo fosse. È stata una cosa pazzesca, 15 giorni in cui erano capaci dalle 8 di mattina con l'interruzione del pranzo di andare avanti fino alle 7-8 di sera a discutere a livello mondiale, quindi c'era Asia, Africa, ok, con 15 lingue diverse, ogni frase doveva essere tradotta in 5 lingue, cioè noi adulti dopo 2 ore ce ne andavamo, non ce la facevamo più, e loro lì con una voglia, una cosa, poi la sera festa, discoteca, fino alle 6 di mattina e poi lì duri e potenti, meravigliosi. Io sono proprio innamorato, cioè, non è possibile, cioè. E ho detto: voglio andare lì a capire, cioè sono finti, li drogano, com'è? E poi ho visto che è veramente un percorso da base, che inizi dai piccolini, che comunque vedendo gli altri iniziano a rendersi conto che appunto non stanno facendo niente di male, stanno aiutando, e poi iniziare a capire che qualcuno riuscire a uscire dal giro, perché anche lì appunto gli adolescenti, pochi arrivano poi in posto a livello, c'è chi poi comunque, nonostante tutto, ricade nelle fila delle forze armate, paramilitari, guerriglie, tutto quello, trafficanti, eccetera. Però con la consapevolezza di un'alternativa possibile, insomma. Queste loro rivendicazioni, poi partecipano agli incontri dell'ONU, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dell'UNICEF, facendo il loro motto un po': noi non siamo il problema, siamo parte della soluzione. Cioè rivendicare la partecipazione, il protagonismo non dire solo noi decidiamo, ma mettiamoci insieme, dateci però uguale valore di voi adulti ben pensanti che non sapete di cosa parlate, abrogate il lavoro e così ci condannate le peggiori forme di sfruttamento. Nel momento in cui qualsiasi lavoro di un bambino è illegale, ci costringete ad andare di notte, eccetera, eccetera. Ma appunto con una proprietà e una consapevolezza e delle idee alternative di proposta, ce l'ho detto, noi abbiamo creato delle microimprese, ed è vero, di cui creano questo artigianato senza un capo, senza decidendo loro l'orario, facendo la cassa comune per cui se uno sta male si sostengono, cioè delle cose meravigliose. Ma è nato come è nato? Ti dico, è nato da... Allora, come adulti, tra gli ispiratori ci sono stati... Non è nato dai bambini? No, è nato in parallelo. Cioè c'è stati alcuni gruppi di ragazzini, ti dicevo in Perù durante questa forte crisi degli anni 70, che hanno iniziato realmente a dire noi non possiamo stare a guardare i nostri genitori, le nostre famiglie che crollano, e quindi si sono presi, diciamo, questo protagonista dicendo metà giornata studiamo e metà andiamo a lavorare, no? E iniziando a con una consapevolezza. Ci sono stati degli adulti che hanno visto con meraviglia questa cosa e hanno iniziato ad accompagnarle, a studiarlo, offrire strumenti di organizzazione e di lettura della cosa. Anche qui i più vari, c'è Kusianovic, che appunto in Perù, in Guatemala, è stato uno dei... adesso è anzianissimo, vecchissimo, ce la fa quasi più. Anche lui era per esempio un teologo della liberazione che è sempre stato con gli operai in prima linea. Ci sono persone esponenti del movimento appunto operaio, del social sudamericano, no? Che hanno accompagnato. Poi in realtà quasi tutti, questa è diciamo la fase un po' più ideologica, poi quasi tutti chi accompagna sono ex bambini lavoratori, in realtà, che adesso hanno magari 18-19 anni, sono riusciti anche ad andare alcuni all'università, quindi aver anche approfondito a livello di politica, sociologia, psicologia, certe dinamiche, e parte almeno del tempo settimanale lo dedicano ad accompagnare i più piccoli che scelgono di aderire a questi percorsi che nascono nei quartieri in modo a volte informale, a volte poi creando associazioni, creando gruppi locali. Poi ci sono delle ONG che hanno scelto di sostenere, tipo Save the Children appoggia a livello mondiale il movimento dei bambini lavoratori, altre si sono ovviamente bloccate, ma un sacco di realtà dicono è impossibile sostenere bambini che vogliono lavorare, bisogna eliminare il lavoro minorile, no? Quindi questo meccanismo qua, molte associazioni, l'UNICEF per prima, insomma, finanziano progetti contro i bambini lavoratori che appunto loro dicono, come quello più eclatante, no? Che si era saputo poi anni fa, delle fabbriche chiuse in Asia e poi le bambine sono dovute andare a prostituirsi perché un conto era lavorare, magari loro dicono noi lottiamo per condizioni degne di lavoro ma non per eliminare il lavoro, fino a quando non venissero eliminate le condizioni di ingiustizia, di povertà. Com'è? No, ma è uno step successivo. Chiaro, voi adulti pensate a risolvere povertà, ingiustizia e guerra. Dopo allora ne riparliamo. Però alcuni di loro veramente avendo maturato una consapevolezza del valore, abbiamo sentito, no? Anche Jennifer, il lavoro è un diritto innato della persona da cui nasci, dal momento in cui nasci. Cioè averne sperimentato un valore tale che loro dicono non torneremo più indietro. Però è un lavoro degno, fatto in piccolo gruppo, in cui puoi sperimentare la tua creatività, in cui definisci tu sia le mansioni col gruppo, ovviamente le mansioni, i turni, il ruolo, in cui appunto hai il tempo comunque per dedicarti anche a altri. Un'esperienza così, loro dicono, è fondamentale che anche un bambino lo possa vivere. Poi in realtà in questo, anche nelle esperienze diciamo passate di pedagogie alternative, anche libertarie o attive, i laboratori di lavoro dei bambini nelle scuole ci sono sempre state della falegnameria, l'artigianato, no? E loro hanno in mente una cosa infatti molto... Infatti la visione del lavoro che ne si deve avere. Che manco gli adulti hanno, certo. Che noi siamo i primi a essere spaventati e dire ma potessimo vivere senza lavorare. Per loro è una sistemica. In quell'ottica lì. Tra l'altro noi ci scandalizziamo, però i nostri bambini lavorano 8 ore al giorno e sono costretti 5 ore a stare seduti in un banco di scuola, gradi, 3 ore almeno a casa per fare i compiti. E non li pagano. E non li pagano. È anche inutile come lavoro, tra l'altro. Non contribuisce a niente. Non sviluppa le loro capacità, ma anzi le deprime. No, ma anche a livello di produzione, no? Ah. Non vedi niente, non hai nessuno. Anzi, costa pure. Devi anche pagare. No, no, infatti. No, ma infatti anche a sentire loro sempre il contrasto con la vita dei bimbi nostri, che magari uno considera privilegiati, però effettivamente che spesso stanno ad annoiarsi 8 ore sulla scuola senza produrre niente, senza avere mai esperienze reali, perché al limite si fanno quelle cose di manuale, il lavoretto, no? Che quanto certo. Più abile è tutto finto, quindi non ti sperimenti mai in una cosa vera, poi vai a casa di nuovo, non hai cose vere perché magari guardi la televisione. Sì, insomma, la cosa più vera che forse hanno ogni tanto è lo sport, quelli che lo fanno, se no per il resto è sempre tutto molto finto, tutto molto, sì, finto, sì. Molto inattivo, ed effettivamente magari dipende ovviamente che lavoro fai, se lavori in miniera no, certo. Però se una situazione tipo quella che raccontava lei, proprio lavoro nel senso di realizzazione della potenzialità umana. Se lavoro, non mi ricordo le parole esatte, però insomma conosco la conosco realtà, la realtà, sì. Sì, conosco la gente, che è anche come la scuola di Salvador, cioè, certo. È la comunità. Sei in mezzo alla società, alla realtà, alla gente. Impari a relazionarti con la maggior parte degli adulti è proprio questo che rifuggono. Cioè, no, non voglio avere a che fare con te. È stato forte anche questa, anche se breve, comunque scuote proprio anche, perché anche, non so, non ci avevo mai pensato insomma a mettermi da quest'ottica che loro potessero appunto vedere un valore in questo, se non il valore della sopravvivenza, della necessità. Molto bella questa cosa. Sì, sì, anche a me mi ha scombinato l'inizio. Ti scombina le coordinate. Ti scombina un sacco, però senti che è una cosa viva, cioè di... Sì, la puoi metter là, dire oddio, no, che poi è stato bellissimo perché quando li portavamo in giro c'era qualche anziano che si commuoveva e diceva anche io, perché i nostri nonni erano così, senza la consapevolezza, però noi lavoravamo, portavamo l'acqua a chi era sui campi, gli animali, seguivamo in casa, che ed era come ritornare a capire il valore di quella parte di vita che veniva a volte riconosciuta dalla comunità famiglia, a volte no. Trattato come l'ultimo che mangiava per l'ultimo, eccetera. Però in alcune situazioni no, devo dire che sì, noi lì abbiamo imparato certi valori della vita che poi non abbiamo più perso. No, che poi in tante società comunque effettivamente anche di comunità o di tribù, eccetera, ogni persona ha le sue mansioni, le sue responsabilità ed è giusto che sia così. E noi forse appunto questo concetto dell'infanzia moderno super protetto. Però poi ti porta a essere più impotente, più inutile, a non saper fare niente, a essere più dipendente. Sì, i suicidi infantili sono molto più alti qui che lì. Cioè il senso di avere un valore, per quanto faticoso, in quello che fai, è molto più frequente lì che da noi, dove in teoria puoi avere un po' tutto, ma non hai il gusto più di niente, no? Cioè fai cose perché devi, fino ai 18, poi adesso arrangiati, adesso sei grande, lì. Poi cioè, non sai più cosa vuoi. Non sai più cosa vuoi, non sai più decidere, non sai più organizzarti, sei un burattino, tagliano i fili, crolli. E quindi stanno aumentando in maniera esponenziale l'alcolismo, i ragazzini di 10-11 anni, tutte forme di fuga da una società che non ti dà gli strumenti per prendere un ruolo attivo di protagonista, che dimostra che c'è possibile, perché realmente anche nelle piccole esperienze che ho fatto io, aprire certe tematiche, parlare di diritti, parlare di problemi, desideri, sogni, nelle nostre scuole si illuminano subito, ci vuole poco, io proprio ho visto portando queste cose, ho detto chissà che succede, invece era immediata la voglia di mettersi in gioco, la voglia di riappropriarsi di spazi, magari le ricreazioni, inventare laboratori nelle ricreazioni, insomma, quei spazi pochi che avevano, la voglia di reinventarseli. Quindi questo non è che è un DNA diverso di loro. Certo, sentire loro dicono, ah, non, sembrano di un altro pianeta, no? Come consapevolezza, però per fortuna questo c'è ancora tutto, anche nei bambini e nei ragazzi che abbiamo vicino. Sì, ce le hanno anche i nostri, sono i contesti. Solo che sì. Facciamo di tutto per spegnere. Bene ragazzi. Grazie. Prego.